E va bene, doppia mascherina, presa. Stick per mantenere la distanza sociale, presa. Autocertificazione, ah no, non serve più, giusto. Bene, allora la parola è bolognesi. Negli ultimi giorni si parla della possibilità di riaprire i bar e i ristoranti la sera. Lei cosa ne pensa? Ma io sono d'accordo, anche per l'economia del paese e anche per la gente. Secondo me ci sta, comunque con tutte le regolamentazioni del caso. E se non sono aperti la sera, comunque la gente si ritrova in altri posti che non sono controllati. Boh. Oddio, aspetta. Penso che sia una possibilità che aiuterebbe veramente le persone del settore. Lei ha paura che questa possibilità possa far tornare assembramenti e contagi? Credo che ciò che possa far risalire i contagi sia la mancanza di controllo in generale. Credo che anche questo sia possibile come in tanti altri casi. Ci sono tante altre situazioni però che creano assembramento anche durante il giorno, anche infrasettimanali. Quindi. I politici stanno dando la colpa ai giovani per la movida, per gli assembramenti. Che non ci credo, perché si cura con la tachipirina, è tutto un sistema sbagliato. Dopo 3 mesi di coprifuoco, voi che idea vi siete fatti? Insomma, come l'avete vissuta, come la state vivendo? È stato un po' più difficile tornare chiusi in casa. È un po' limitante, però non è una limitazione così grave. Bene, perché tanto si sveglia presto la mattina e poi la sera si va a letto. Sì, bene, alla fine uno trova qualcosa da fare comunque in casa. Ci adattiamo. Forse, ecco, durante il weekend ci sta. E se dovessero riaprire i ristoranti a cena, voi siete pronte a tornarci? Sì, sì. Anche a pranzo, adesso appena riusciamo andiamo. Io ci andrei, assolutamente, conscia dei rischi. Certo. Perché no? È un ordine mondiale, secondo me è la terza guerra mondiale. Quando andate al ristorante, c'è un piatto che scegliete sempre anche dopo aver visto il menù per mezz'ora? Dipende dal ristorante, comunque esatto. Di solito pasta, tortellini. Esatto. Le patate arrosto. Tendenzialmente un qualcosa che non mangio a casa, magari un primo un po' particolare. Un piatto, la ribollita. La carbonara, sono un amante della carbonara. Spaghetti alla carbonara, direi. C'è una persona cara con la quale vorrebbe andare a cena? Con il mio ragazzo e con la mia migliore amica, principalmente. La mia famiglia, mia nonna. I miei bimbi, mia moglie e anche un po' di amici. Boh, un amico. Anch'io un amico. Con mia nonna. Con la Meloni. Invece con una persona del governo attuale, visto che adesso avranno tanto tempo libero? Cioè, se andrei a cena con un membro del governo... Ma non saprei. Con te sì? No, io no. Oh, non credo che ci sia nessuno. Conte, per chiedergli come si è vissuto tutto quest'anno, questi mesi difficili. Il governo attuale con nessuno, deve mandarvi tutti di traverso. Un sistema a livello mondiale che vogliono decimare il mondo.